Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Le coccole hanno il potere di modificare i geni dei bambini. Lo dimostrano i risultati di una ricerca dell'University of British Columbia e del British Columbia Children's Hospital Research Institute. A Obiettivo Salute commentiamo la notizia con Alberto Pellai, psicoterapeuta e autore di Coccolario, De Agostini Editore. I bambini che vengono coccolati e che hanno una relazione ad alto contatto con i propri genitori dimostrano, rispetto ai bambini che non ricevono lo stesso tipo di trattamento, di crescere meglio, di avere un migliore sviluppo, e inoltre questo contatto emotivo e corporeo tra genitore e bambino facilita l'espressione del sistema immunitario e delle difese immunitarie e rende il bambino perciò più sano e più competente rispetto alle aggressioni infettive e alle infezioni a cui potrebbe essere soggetto. Sulle pagine del programma Coccole, istruzioni per l'uso di Alberto Pellai. Si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. A partire da oggi sino a domenica 10 dicembre in tutte le piazze italiane si potranno acquistare le stelle di Natale AIL per sostenere la ricerca e il servizio di assistenza domiciliare. A Obiettivo Salute il professor Amadori, ordinario di ematologia all'Università Tor Vergata di Roma e vicepresidente AIL. Il sostegno alla ricerca nella lotta contro i tumori del sangue è assolutamente fondamentale. Significativi progressi si stanno realizzando, soprattutto negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di quella che noi chiamiamo l'ematologia di precisione, cioè la possibilità di dare a ogni paziente la terapia che è necessaria per controllare la sua malattia, basato sulle caratteristiche biologiche del suo tumore. Questo ha consentito dei grandi progressi e questo è un orizzonte che noi vogliamo coltivare e portare avanti per tutti i pazienti affetti da un tumore del sangue. L'AIL si propone poi di venire incontro alle esigenze, alle necessità del paziente. Il paziente affetto da tumore del sangue è al centro dell'interesse dell'AIL e noi vorremmo trasferire, portare almeno una parte di queste cure, spesso molto pesanti, lunghe e stressanti per il paziente, a domicilio del paziente, con gli innegabili vantaggi che tutti possono comprendere di una qualità di vita nettamente migliore. E per oggi è tutto, ma io vi do appuntamento domani a mezzogiorno per Obiettivo Salute Weekend e domenica, sempre a mezzogiorno, per la bufala in tavola. Buona giornata da Nicoletta.